fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarvi. Ed eccoci qua con l'ultima intervista di questo sabato sera, sabato Village del Convento di Leonato, in compagnia di... Nicola! Uè, ciao Nicola, ciao! Allora, siete qui a festeggiare un vostro amico, giusto? Esatto. Allora, come si chiama l'amico? Paolo. Paolo detto? Alf. Alf, è Paolo Alf. È contento lui che lo chiamate così? Ciao. Oh, fantastico, contentissimo. Perché voi siete compagni di calcio, giusto? No. Sì, ci conosciamo dall'asilo praticamente. Ah, dall'asilo con Alf. E fin dall'asilo chiamavi Alf? No, dai, dagli ultimi 3-4 anni. Gli ultimi 3-4 anni? Adesso è una cosa fresca allora. Esatto. Alf sta per? È un cartone che praticamente è uno sacchiotto. Ah, ok, quindi perché lui sembra uno sacchiotto? Agli occhi come quello sacchiotto lì, sì. Ah, ok, ok. Allora, per gli amici curiosi, andranno a vedere le foto sul sito del convento e vedranno se Alf ha gli occhi da Alf, è uguale, giusto? È uguale. È uguale. Tra l'altro, approfittiamo per salutare un altro amico in comune che stasera non c'è, è il mistico... Max! Il Max, Max, il Max, il Max, il Fallang, io lo chiamo Fallang di solito. Tu come lo chiami, Max? Max, È il bello della squadra di calcio lui? Era... Il bello ma scarso. Ah, scarso, scarsissimo. Che ruolo in teoria faceva? Che ruolo? Non si sa. Ah, proprio panchinaro? Sì, panchinaro di destra di solito è suo ruolo. Ah, lui è panchinaro di destra, giusto? Non lo sapevo questa cosa. Tu invece che ruolo fai? Panchinaro di sinistra. Panchinaro di sinistra. Lo sapevo, immaginavo. Perfetto, quindi una squadra di panchinari, non gioca nessuno, sta tutti in panchina. Esatto. Perfetto, anche Alfa in panchina? No, Alf ormai è vecchio. Ah, è andato proprio, totalmente. Alf non serve, non serve a nulla. Non serve a nulla, esatto. Ormai si sposa, basta, è finito lì così. Esatto. E la squadra come si chiama, la squadra di calcio? Ghedi. Ah, nel Ghedi? FC Ghedi. FC Ghedi. FC sta per? Football Club. Ah, pensavo, non so, un'altra cosa proprio strana. Va bene, ma che categoria è? Non lo so. Ah, non lo so, non ha categoria. Quello è un fan? È un fan questo? Questi qua sì, adesso uno è mio compagno, quello là dietro è il mio compagno che... Quello che ti ulula? No, quelli è l'alcolizzato. Quello, ah, quello ok, perfetto. Quello è l'alcolizzato, quello è il tuo compagno di squadra? Questo sì. È un tifoso? No, qua è un tifoso, ti sta sì. Facendo dei gesti strani, tipo vieni qua che ti sculaccio, una roba del genere? No. Sembrava però dal movimento delle mani. No, perché a casa l'amorosa, quindi deve andare a casa... Ah, a sculacciare lei? A sculacciare lei. Perfetto, sì. Quindi immagino la fretta che ha, quindi esigenza. Ok, poi cosa abbiamo? Alf non lo vedo. Alf è là in mezzo, di allubilato. È lì che sta ballando? Tra l'altro una cosa strana di Alf è che durante la serata ho visto che praticamente era tutto bagnato sulla maglietta, no? Cosa gli è successo? Qualcuno gli ha buttato una bottiglia addosso. Ah, ok, cosa che capita, no? Così, fantastico. Vuole ancora sposarsi o siamo riusciti a fargli cambiare idea? No, è innamoratissimo. Ah, innamoratissimo? Certo. Mentre tu sei single o fidanzato? Fidanzato. Sei innamoratissimo anche te? Certo. Vuoi approfittare per salutare lei? Ma ciao amore, Fede. Ma ciao amore, Fede. Tra l'altro siamo in diretta, metti che sta ascoltando la radio in questo momento. Sta dormendo. Ok. Se sta dormendo, scaricheremo l'applicazione della Risto Radio Web. E così le dici, vai, ascolta, fai così, le fai una sorpresa, no? Dici, cara, tu scarichi l'applicazione, vai a vedere il palinsesto, sai quando fanno la replica della tua intervista e le dici, scarica questa applicazione così, verso quell'ora, casualmente, e la fai sentire. Va bene. Allora approfitta per dire qualcosa di più, che almeno così le fai una sorpresa, dille, non so, una dichiarazione, qualcosa... Sbilanciati, tanto siamo qua io e te in questo momento. Solo io e te, né? Sì, non ci sente nessuno. Vai tranquillo. Ciao amore, tra poco sono a casa, non preoccuparti, è andato tutto bene. È stato bravo, bene. Sì. Bravissimo. Sì, confermo. Bravo. Nicola, bravissimo. E niente, ci vediamo dopo. Ciao amore. Ah, così. Ti manca? Sì. L'hai pensato tutta sera? Certo. Fantastico, io vedo veramente nei tuoi occhi questa sensazione. Bravo. Ok, va bene. Salutiamo anche Fallang, dai, anche Fallang che... Il mitico Max. Vuoi insultarlo a lui invece? Lui lo insulto sempre in privato però. Ah, in privato. Il giocatore più scarso che abbia mai visto nella mia storia. Ah, perfetto, è proprio scarsissimo. Va bene, io non l'ho mai visto purtroppo giocare. No, è meglio per te. Io l'ho visto tipo col computer, è scarsissimo anche col computer. Chi è questo? Ah, ciao, salutiamo... stanno andando via tutti, Nicola. Sì. Dovremmo andare anche noi. Dai. Ok, no, perché quello deve andare a sculacciare l'amorosa e quindi ci mette pressione. Sì. Allora, Nicola, un saluto alla tua fidanzata, un saluto Alf. Alf. E poi un saluto a tutta la squadra, come si chiama? FC Ghedi, dopo il Bembe, Menek, Daniel, Luchino, quelli che è leggermente alcolizzato. Ah, ok, perfetto, Luchino. E questo? Li abbiamo salutati tutti? Non questo manca qua, nessuno? Questo qua è quello che sculaccia, okay. La ragazza. Ok, salutiamo tutti perché la serata è finita e andiamo in pace. Ciao Nicola. Ragazzi. Ciao.